Ad alta voce. Corrado Guzzanti legge Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov. Quarta puntata. A Filip Filippovich accadde qualcosa a seguito della quale la sua faccia si fece leggermente purpurea, ma egli non proferì alcun suono in attesa di quello che sarebbe successo in seguito. «L'ambulatorio», disse Schwonder, «l'ambulatorio può benissimo essere unito allo studio». Proferì Filip Filippovich con voce in qualche modo strana. «E dove mai dovrei prendere i miei pasti?» «In camera da letto», risposero tutti e quattro in coro. Il rossore profondo di Filip Filippovich si velò di una sorta di sfumatura grigiastra. «Prendere i pasti in camera da letto», esordì con voce soffocata. «Leggere in ambulatorio, vestirsi in sala d'aspetto, operare nella stanza della domestica e in sala da pranzo visitare? È molto probabile che Isadora Duncan faccia cose del genere». È possibile che pranzi nello studio e sezioni i conigli in gabinetto. È possibile, ma io non sono Isadora Duncan, ruggì all'improvviso e il rossore profondo cedette il posto a un colore giallastro. Io pranzerò in sala da pranzo e opererò in sala operatoria. Comunicatelo all'assemblea generale e vi prego umilmente di tornare a occuparvi dei fatti vostri e di lasciare a me la possibilità di prendere il mio pasto nel luogo in cui lo prendono tutte le persone normali, ovvero in una sala da pranzo e non in un'anticamera o nella stanza dei bambini. Allora, professore, considerata la sua ostinata opposizione, disse Schwonder tutto agitato, presenteremo un reclamo nei suoi confronti alle istanze superiori. «Ah, proferì Filip Filippovich, stanno così le cose!» La sua voce assunse una sfumatura di sprezzante cortesia. «Vi chiedo di attendere solo un momento!» «Questo sì che è un'ingamba», pensò il cane in preda all'entusiasmo. «Mi assomiglia proprio! Oh, adesso gli darà una bella morsicata! Oh, gliela darà! Non so ancora in che modo, ma gli darà una bella morsicata! Suonagliele per bene! A questo spilungone lo si potrebbe prendere appena al di sopra dello stivale per i tendini sotto il ginocchio!» Filip Filippovich, dato un colpo sul tavolo, staccò la cornetta del telefono e così vi parlò. «Per cortesia, sì, la ringrazio. Chieda di Piotr Aleksandrovich, per cortesia. Il professor Probaženski. Piotr Aleksandrovich, sono molto contento di averla trovata. La ringrazio, sto bene. La sua operazione è stata annullata». «Come? No, annullata definitivamente, come tutte le altre operazioni d'altronde. Ecco perché smetto di lavorare a Mosca e in generale in Russia. Sono appena venute da me quattro persone, tra di loro una donna travestita da uomo, due con tanto di pistola, e mi hanno terrorizzato nel mio appartamento allo scopo di portarmene via una parte». «Permetta, professore», prese a parlare Schwonder, mutando in viso. «Mi scusi, non sono in grado di ripetere tutto quello che hanno detto. Non sono uno che vada pazzo per le assurdità. Basti dire che mi hanno proposto di rinunciare al mio ambulatorio. In altre parole, mi hanno messo nella posizione di doverla operare nel luogo in cui fino a questo momento ho sezionato i conigli. In simili condizioni non solo non posso, ma non ho nemmeno il diritto di lavorare. Quindi interrompo la mia attività, chiudo l'appartamento e me ne vado a Sochi. Posso consegnare le chiavi a Schwonder, che le faccia lui le operazioni». I quattro si sentirono gelare. La neve sui loro stivali si andava sciogliendo. «Che fare? Anche per me è molto sgradevole. Come? Oh no, Piotr Aleksandrovich, oh no, così non sono disposto ad andare avanti. La mia pazienza ha raggiunto il limite. È già la seconda volta dal mese di agosto. Come? Ah, come vuole. Così fosse. Ma una sola condizione: a chi vuole, come vuole, quando vuole, ma che si tratti di un documento in virtù del quale né Schwonder né nessun altro possano nemmeno avvicinarsi alla porta del mio appartamento. Un documento definitivo, prodigioso, autentico, una corazza. Che non si faccia nemmeno menzione del mio nome. Chiuso. Sì, sì, io per loro sono morto. Ah, prego, chi? Beh, questa è un'altra questione. Ah, bene. Adesso gli passo la cornetta, sia gentile. Filip Filippovic si rivolse a Schwonder con voce perfida. Le vogliono parlare. Mi scusi, professore, disse Schwonder, ora avvampando, ora spegnendosi in volto. Lei ha frainteso le nostre parole. La prego di non usare simili espressioni. Schwonder prese la cornetta con aria smarrita e proferì. Pronto, sì, il presidente del comitato di caseggiato. Stavamo agendo secondo le regole, ma anche così il professore gode di una situazione assolutamente eccezionale. Sappiamo dei suoi lavori, volevamo lasciargli ben 5 stanze. Beh, va bene, se le cose stanno così, va bene. Del tutto paonazzo riappese la cornetta e si voltò. Come l'ha sistemato, che tipo in gamba, pensò il cane estasiato. Cos'è, conosce forse qualche paroletta magica? Beh, adesso potete picchiarmi come più vi piace, ma di qui non me ne vado. Tre, le bocche spalancate, guardavano l'umiliato Schwonder. «È una vergogna», disse questo intimidito. «Se adesso ci fosse un dibattito», cominciò la donna agitandosi e diventando di fiamma, «dimostrerei a Vitali Aleksandrovich...» «Scusi tanto, non vorrà aprire un dibattito in questo preciso istante?» domandò Filip Filippovic cortesemente. Gli occhi della donna lampeggiarono. «Capisco la sua ironia, professore. Adesso ce ne andiamo». Soltanto io, in quanto direttore della sezione culturale della casa, direttrice, la corresse Filip Filippovic. Voglio proporle, a quel punto la donna estrasse da sotto la giubba alcune riviste colorate fradice di neve, di prendere alcune riviste a favore dei bambini tedeschi, mezzo rublo a numero. No, non le prendo, rispose brevemente Filip Filippovic dopo aver gettato un rapido sguardo alle riviste. Un autentico stupore si manifestò sui loro volti e la donna si fece del colore del mirtillo di palude. «Perché mai rifiuta? Non voglio!» «Non prova compassione per i bambini tedeschi? Mi sono indifferenti!» «Le dispiace dare mezzo rublo?» «No!» «E allora perché? Non voglio!» Tacquero. «Sa, professore», proferì la donna dopo un profondo sospiro, «se lei non fosse un luminare di grandezza europea e nel modo più inqualificabile non fossero intervenuti in sua difesa», il biondino la strattonò per un lembo della giubba, ma lei lo respinse, «dei personaggi sui quali, ne sono convinta, dovremmo fare chiarezza, la si dovrebbe arrestare». «E per cosa?» domandò Filip Filippovic incuriosito. «Lei è un nemico del proletariato», disse la donna infervorata. «Sì, non amo il proletariato», ammise tristemente Filip Filippovic e schiacciò il campanello. Un suono si levò da qualche parte. Si aprì la porta che dava sul corridoio. «Zina!» gridò Filip Filippovic. «Metti in tavola! Voi permettete, signori?» I quattro uscirono in silenzio dallo studio. In silenzio attraversarono la sala d'aspetto. In silenzio l'anticamera. E si sentì come la porta d'ingresso si chiudeva alle loro spalle con un colpo forte e sonoro. Il cane si alzò sulle zampe posteriori e dinanzi a Filip Filippovic improvvisò una sorta di salame lecco. Su piatti con un ampio bordo nero, decorati a colori paradisiaci, giacevano sottili fettine di salmone e dell'anguilla marinata. Su un asse pesante c'era un pezzetto di formaggio con la goccia simile a una lacrima e in una bacinella d'argento del caviale circondato di neve. Tra i piatti, alcuni bicchierini in vetro sottile e 3 caraffine di cristallo con vodka di colori diversi. Tutti questi oggetti erano collocati su un piccolo tavolino di marmo, comodamente accostato a una massiccia credenza di quercia intagliata che rigurgitava fasci di luce vitrea e argentata. Nel mezzo della stanza un tavolo pesante come un sepolcro, coperto da una tovaglia bianca, e sopra 2 coperti, i tovaglioli avvolti a mo' di tiare papali e 3 bottiglie scure. Zina portò un piatto d'argento coperto nel quale soffriggeva qualcosa. Il profumo che si sprigionava dal piatto era tale che al cane sull'istante venne l'acquolina in bocca. «I giardini di Semiramide», pensò, e sbatté rumorosamente la coda sul parquet come se fosse un bastone. «Mettili qui», ordinò Filip Filippovic con fare rapace. «Dottor Bormental, la supplico, lasci in pace il caviale e se vuole prestare ascolto a un buon consiglio, si versi della normale vodka russa e non quella roba inglese». Il bella zannato non indossava più il camice ma un decoroso vestito nero, contrasse le spalle, fece un sorrisetto cortese e si versò del liquido trasparente. «Di santificazione recente?» si informò. «Per carità di Dio, mio caro!» ribatté il padrone di casa. «Quello è alcol puro. Daria Petrovna sa preparare perfettamente la vodka da sola». «Che dice Filip Filippovic? Tutti affermano che la 30 gradi sia proprio come si deve». «Ma la vodka deve averne 40 di gradi e non 30. Questo in primo luogo», l'interruppe Filip Filippovic con tono dottrinale. «E in secondo luogo, solo Dio sa cosa ci hanno messo dentro. Lei ha un'idea di quello che potrebbe passare loro per la testa?» «Qualsiasi cosa», affermò con convinzione l'azzannato. «E io sono dello stesso parere», soggiunse Filip Filippovic e si rovesciò in gola d'un fiato il contenuto di un bicchierino. «Dottor Mormental, la supplico, ci dia subito dentro con questa e se poi mi dirà che è cattiva, sarò suo nemico mortale per tutta la vita». «Da Siviglia fino a Granada». Con queste parole egli stesso aggranfiò con l'argente a forchetta palmata qualcosa di simile a un minuscolo panino scuro. Colui che era stato addentato ne seguì a sua volta l'esempio. Gli occhi di Filip Filippovic si illuminarono. «È cattivo?» domandò Filip Filippovic masticando. «È cattivo? Mi risponda, egregio dottore». «È eccellente», rispose l'azzannato in tutta sincerità. «Ci mancherebbe. Voglia notare che le cene a base di antipasti freddi e zuppa le consumano solo i proprietari terrieri che non sono ancora stati sgozzati dai bolscevichi. Un uomo che anche solo minimamente si rispetti opera con antipasti caldi e tra gli antipasti caldi moscoviti questo è il primo. Un tempo li preparavano grandiosamente nei ristoranti famosi. Tò, piglia!» «Dia da mangiare al cane a tavola», si levò una voce di donna, «e non riuscirà più a tirarselo dietro neppure con un panino». «Non fa nulla, questo qua poveraccio ne ha patita di fame». Filip Filippovic con la punta della forchetta diede al cane un antipasto che fu da questi preso con abilità da giocoliere. Poi con un tonfo lasciò cadere la forchetta nella vaschetta per la risciacquatura. Quindi dai piatti si levò un vapore che sapeva di gamberi. Il cane sedette all'ombra della tovaglia con l'aria di una sentinella a un deposito di munizioni e Filip Filippovic, infilato un lembo del tovagliolo rigido dietro al colletto, si mise a sermoneggiare. «Il cibo è una cosetta astuta. Bisogna saper mangiare. Ma come si può ben immaginare, la maggior parte delle persone non lo sa fare. Bisogna non solo sapere che cosa mangiare, ma anche quando e come». Filip Filippovic agitò con fare significativo il cucchiaio. «E di cosa parlare mentre si mangia? Sì, signore, se lei si preoccupa della sua digestione, eccole un buon consiglio. Durante il pranzo non parli di bolscevismo e medicina. E che Dio la guardi, prima di pranzo non legga giornali sovietici». «Ah, ma non ce ne sono altri». «E lei non ne legga nessuno. Sa, ho esaminato una 30 di pazienti nella mia clinica. E cosa crede? I pazienti che non leggevano giornali si sentivano magnificamente. Quelli invece che costringevo appositamente a leggere la Pravda perdevano peso». «Ah, reagì incuriosito l'azzannato, prendendo un colorito roseo in viso per via della zuppa e del vino. «Ma non basta! Riflessi dei ginocchi ridotti, disappetenza, stato depressivo!» «Che diavolo! Sì, signore! D'altronde, che sto facendo? Mi sono messo io stesso a parlare di medicina. Faremmo invece meglio a mangiare!» Filippo Filippovich, appoggiandosi allo schienale, suonò e da dietro la tenda color ciliegia apparve Zina. Al cane toccò un grosso boccone di pallido storione che non gli piacque, ma subito dopo un pezzo di rosbif sanguinolento. Dopo averlo ingollato, all'improvviso il cane sentì di avere una gran voglia di dormire e non fu più in grado di vedere altro cibo. «Una strana sensazione», pensò sbattendo le palpebre appesantite. «È come se i miei occhi non volessero più vedere cose da mangiare. E fumare dopo pranzo è una vera sciocchezza». Corrado Guzzanti ha letto Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.